dove sopra non si vede il cielo. Respiro con tutto il peso di un fiato leggero. Confino con la merda come la Francia di Sarkozy. L'Italia va a fuoco come le scritte sugli XGBT. Martiri, bimbi crescono con loro in bocca. Torno dentro casa e quando esco chiudo la porta. Si va nella città dolente nell'eterno dolore tra la perduta gente. Tutti che pulite le spazzole dai capelli, come se senza le prove tutti voi foste più belli. Ma intanto la polvere d'asfalto ci cresce dalle narici e due mezzi mendicanti litigano per gli spicci come i feticci. Adorazione del cartone, perversione d'alcolista. E lei strappa il colore a me, lo regala agli occhi suoi per scioglierci il cartone. Lei ha un debole per me, mi dilania in centro e poi al mio cuore che si muove. Lo scheletro di un albero che mi copre la vista, l'oggetto di un clacson rivolto a un vecchio corridore fuori pista. Chiudo la finestra e inspiro, lo smog si versa in casa, porta brioche a cappuccino. Rimetto fuori il becco del vapore mattutino, mentre il vento si fa freddo, nuvoloni e dentifricio che parcheggiano due auto, poi quattro, poi 16, poi 24 sotto ad uno stesso ufficio che le veglia soddisfatto. Ma ucci ucci odor di sesso, mi nascondo dentro esso, dal mio terzo falso schermo mi nomino il capo immenso. Se correndo dietro il tempo ti scappa, perdi tempo mentre il tempo fa piangere una ragazza. Il freddo regisce appena col fuoco dietro la schiena, chi scappa non ha valigia, la stazione mi sembra piena. Laddove ci sono sbarre scrivo sopra le serrande: scusate grattacieli se abiti alle vostre pance. E lei strappa il colore a me, lo regala agli occhi suoi per scioglierci il cartone.